Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buongiorno, bentornati a Magazine 24, il nostro appuntamento settimanale con la stampa periodica come sempre italiana, non solo italiana. Volevo cominciare questa mattina con una indicazione numerica che mi ha abbastanza sorpreso. Non so quanti di voi sappiano che in realtà nel mondo vengono prodotti alimenti, viene prodotto cibo per 12 miliardi di persone, quindi molte di più di quelle che ci sono in effetti sul pianeta. Basterebbe cibo per 7 miliardi. Dove finisce? Finisce ovviamente negli sprechi, negli eccessi, soprattutto da parte dei paesi più sviluppati, tra cui il nostro, e finisce poi nei mangimi per animali. Questo differenziale, che è noto peraltro agli specialisti, è tornato d'attualità anche in occasione della conferenza mondiale della FAO che si è tenuta a Roma, ma il dato viene ripreso questa settimana da 24, come sapete, è il mensile del Sole 24 Ore, dedicato ogni volta a un numero diverso. Questa volta la parola chiave è notte. Su questa parola notte vengono articolati diversi discorsi. Un elemento di oscurità, appunto, che viene declinato è quello che viene rappresentato da Carlo Petrini in una breve intervista raccolta proprio da Fernanda Roggero. Petrini spiega: c'è il paradosso del nostro tempo, produciamo alimenti in grado di sfamare 12 miliardi di persone e al mondo siamo meno di 7 miliardi. Nonostante tutto, un miliardo di uomini soffre la fame. Tutto ciò attraverso un sistema produttivo che è tra i principali responsabili della progressiva distruzione dell'ambiente. La produzione su scala industriale, dice Petrini, mangia la terra e il cibo è diventato prodotto di consumo e non più un alimento. Questa la denuncia molto forte di Petrini, che è fondatore di Slow Food e dell'organizzazione Terra Madre. Ma perché vi faccio tutto questo ragionamento sul cibo? Perché oggi, proprio oggi, si svolge in Italia la giornata nazionale della colletta alimentare. Devo dire, non è che i settimanali siano proprio distinti per segnalare l'evento, però almeno Famiglia Cristiana lo ricorda con una bella inchiesta che parte proprio dalle stesse considerazioni di Petrini. Undicesimo non sprecare è il titolo dell'articolo di Giusy Galimberti, presentato questa settimana da Famiglia Cristiana. Sabato 28 novembre, oggi, è la giornata della colletta alimentare. Allora, visto che il sabato è un giorno tradizionalmente dedicato alla spesa, un giorno dedicato al supermercato da parte delle famiglie, bene, mi piace ricordarvi che ci saranno 110.000 volontari in tutte le grandi catene, in tutti i grandi marchi dei supermercati, discount compresi, per raccogliere le donazioni che le persone che si recano nei supermercati vorranno fare. Donazioni non in denaro, mai in denaro, ma donazioni appunto in cibi non deperibili, generi alimentari non deperibili, che verranno poi utilizzati per le persone che hanno bisogno. Se volete sapere più attentamente dove si svolge questa raccolta, potete usare anche internet. Al sito www.bancoalimentare.org trovate l'elenco di tutti i supermercati aderenti. Quante sono le persone che hanno bisogno di questo tipo di aiuto? Secondo alcuni calcoli, secondo l'ultima indagine Istat, ci sono in Italia almeno 8 milioni di persone, non sono pochissime, che non hanno la possibilità di avere una dieta alimentare diversificata. Questo significa che, pur non soffrendo la fame, in realtà sono costretti a mangiare alimenti più poveri e probabilmente sempre gli stessi alimenti, lo ricorda sempre Famiglia Cristiana. Inoltre, e il dato veramente messo a confronto ci riporta quel paradosso di cui diceva Petrini su 24, ogni anno in Italia si gettano via 6 milioni di tonnellate di cibo. Con questa quantità si potrebbero sfamare 3 milioni di persone. Ognuno di noi in media butta via 27 kg, naturalmente quelli di noi che se lo possono permettere. Questo, ripeto, segnalato da Famiglia Cristiana. Poi ritorneremo subito su 24, sul magazine del Sole 24 Ore. Torniamo allora sul Magazine del Sole, perché c'è un altro articolo in materia di sprechi, un po' meno, come dire, imbarazzante per tutti noi rispetto agli sprechi in materia di cibo, che sono veramente dolorosi. È gli sprechi che commettiamo in materia di luce, perché anche l'illuminazione in realtà è male utilizzata, cioè è sprecata spesso. Nel numero, appunto, che trovate in vendita con il Sole 24 Ore da ieri, 24 si occupa anche di questo aspetto, cioè dell'inquinamento luminoso, raccontando la storia di un avvocato che si chiama Mario Di Sora, residente a Frosinone, il quale si occupa appunto di segnalare le insegne luminose, i punti luce eccessivi male utilizzati. Lui gira praticamente per la sua città e poi segnala al comune, segnala all'azienda che utilizza male la luce, come e dove intervenire. La cosa interessante è che, secondo una dei calcoli recenti, si vede che rispetto a Biella, ad esempio, Frosinone ha un 40% di lampioni in più, ma spende il 50% in meno per la corrente. E quindi è come dire che il comune di Biella è molto meno attento all'utilizzo delle sorgenti luminose. Lo spreco, gli sprechi che si commettono un po' in tutta Italia utilizzando luci eccessive o luci mal posizionate possono essere quindi combattute. La storia di Mario Di Sora lo dimostra. Ma restiamo ancora per un altro articolo su 24, sul Magazine del 24 Ore. È un articolo che però non vorrei leggervi, perché l'ho trovato veramente molto molto bello. L'ha scritto Gianluigi De Stefano ed è una storia, anche questa, che si svolge di notte, o meglio che si è svolta di notte, perché racconta la vicenda dei fratelli Judica Cordiglia, che 50 anni fa avevano gettato nel panico il KGB, il temutissimo servizio segreto sovietico, e la NASA, l'ente spaziale americano, perché loro, nel corso di lunghe ed emozionanti nottate, riuscivano da Torino a intercettare le voci degli astronauti americani e dei cosmonauti sovietici, scoprendo che un uomo volò nel cosmo prima di Yuri Gagarin senza riuscire a tornare a casa. Questo è uno dei dettagli che vengono raccontati da questo lungo articolo. Tra le altre cose, che questi due ingegnosi fratelli, con pochi mezzi ma con notevole acume, erano riusciti a fare, era quella di capire qual era il segnale per attivare le basi spaziali sovietiche, appunto, dell'epoca, prima del lancio di un razzo. E tra l'altro era l'utilizzo di una serie di note musicali che tutte insieme componevano una frase del compositore Mussorgsky. Quando questa sequenza veniva completata, i due fratelli torinesi si erano accorti, dopo 48 ore partiva un razzo. Ripeto, non ve lo leggo perché lo trovo veramente molto affascinante, l'ho trovato molto affascinante anche per chi è nato dopo il 1989, quindi non ha probabilmente idea di cosa fosse il contrapporsi anche nella corsa allo spazio da parte delle due superpotenze dell'epoca. Stiamo parlando degli anni 50, degli anni 60, quindi poter arrivare a captare segreti militari era una cosa molto importante e anche discretamente pericolosa. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Stavamo parlando di una vicenda di una cinquantina d'anni fa, appunto quella dei radioamatori torinesi che riuscirono a mettere in scacco l'ente spaziale americano e il servizio segreto sovietico con le loro intercettazioni un po' casalinghe ma molto molto efficaci. Storia raccontata appunto da 24 in edicola con il Sole 24 Ore da ieri. Adesso facciamo un salto all'indietro ancora più lungo, perché da storica in edicola questo mese, nel mese di dicembre, ho trovato diverse cose molto interessanti, specialmente sull'epoca dell'impero romano. Vi leggo qualche cosa che ho trovato più divertente. Abbiamo parlato di fare la spesa. Quanto potrebbe valere un sesterzio secondo voi al giorno d'oggi? Se lo sono chiesti i lettori di Storica, e i redattori si sono sforzati anche di trovare una risposta, visto che appunto parlavamo di quanto di come fare la spesa, parlavamo del sabato come giorno di fare la spesa, vi do qualche riferimento. Potremmo dire che all'incirca, con una notevole approssimazione, un sesterzio oggi varrebbe più o meno 2 euro, cioè quella moneta metallica che usiamo correntemente. È anche così simpatico pensare che quando maneggiamo la moneta da 2 euro, in fondo stiamo maneggiando 2 euro. Come sono arrivati a questa equivalenza? Naturalmente non è molto semplice ricostruire tutte le serie storiche per verificare l'andamento dell'inflazione e il potere d'acquisto, ma si sono basati sui preziari che sono stati recuperati a Pompei. Stiamo parlando quindi dell'epoca della metà del primo secolo. Sappiamo da questi preziari che un chilo di pane allora costava mezzo sesterzio, che un litro di vino costava un sesterzio, e quindi calcolando che oggi un chilo di pane, è il ragionamento che viene svolto da storica, costa circa 2 euro, naturalmente può costare di più in alcune zone d'Italia, però costa anche di meno, si può allora ricavare che mezzo sesterzio vale tra 1 e 2 euro e un sesterzio vale tra i 2 euro fino ad arrivare ai 4. Questa è l'equivalenza che sono riusciti a stabilire gli esperti di storica. Quindi maneggiando 2 euro in realtà è come se maneggiassimo in qualche modo un sesterzio. E un'altra cosa molto originale che ho trovato sulle pagine di storica di questo mese, ripeto, molti articoli sono dedicati proprio all'impero romano, anche perché è stata recentemente ritrovata la cosiddetta giostra di Nerone, cioè la villa dove Nerone aveva fatto costruire una sala da pranzo girevole nel senso che proprio girava, i commensali potevano così ammirare il panorama di Roma dall'alto da una prospettiva sempre nuova, come appunto accade a chi sta su una giostra, per l'epoca una iniziativa architettonica imponente. Ma dicevo, l'altra cosa che mi ha colpito su storica di questo mese, tra le molte interessanti che vengono contenute, è quella del genietto maligno dei refusi. Il genietto maligno dei refusi, come sa chi come sottoscritto si occupa di carta stampata, si occupa di scrittura, è sempre in agguato, e già Cartesio diceva che appunto c'è un genietto maligno che si diverte a infilare l'errore di stampa laddove il redattore e il correttore non possono vederlo. E un lettore ha chiesto a Storica: ma i copisti medievali, quelli che appunto ricopiavano le grandi opere della classicità, non commettevano mai errori? In realtà ne commettevano tantissimi, quindi poi c'è la necessità di correggere sulle pergamene, non si riscriveva tutta la pagina perché sarebbe stato un procedimento troppo lungo, ma la presenza di errori, spiega Storica, era talmente diffusa che fu introdotta la figura di uno spiritello. Lo spiritello veniva chiamato Titivillus. Questo spiritello girava per la terra, secondo la tradizione dei copisti, tutti i giorni, e tutti i giorni raccoglieva gli errori dei copisti e li infilava in un sacco. Alla fine della giornata il sacco veniva consegnato a un diavolo, e questo diavolo trascriveva gli errori, supponiamo senza fare errori, con i nomi dei loro autori in un libro. Ecco, la cosa che più può preoccupare chi poi si occupa di carta stampata, di scrittura, è che nel giorno del giudizio, secondo la credenza medievale, questo libro verrà aperto e gli errori saranno letti a voce alta e attribuiti ai loro autori. Una prospettiva, ripeto, per chi sa quanto è facile fare errori di stampa, che è abbastanza preoccupante. Torniamo decisamente alle cose del presente. Da giovedì avete trovato in edicola il nuovo formato, la nuova veste del magazine allegato al Corriere della Sera, il magazine 7, il nuovo 7 per chi non l'avesse visto, resta in edicola naturalmente anche nei giorni successivi, è sempre in vendita con il quotidiano, con il Corriere della Sera. Nel primo numero di questa nuova veste l'attenzione è puntata sui cambiamenti climatici, naturalmente avvicinandosi alla conferenza mondiale di Copenaghen che si terrà dal 7 di dicembre. C'è molta attenzione da parte dei diversi magazine sul tema, un'attenzione che probabilmente vedremo crescere nei prossimi numeri. La copertina appunto è dedicata al prossimo vertice di Copenaghen, c'è una grande foto con un orso polare che campeggia su un piccolo blocco di ghiaccio in mezzo al mare. Proviamo a salvarlo, sottinteso naturalmente il pianeta, è il titolo dell'articolo richiamato che è affidato ad Al Gore, già vicepresidente degli Stati Uniti. Poi nella presentazione il direttore Giuseppe Di Piazza ricorda ai lettori che il giornale, che questo giornale 7, è nato 22 anni fa più o meno in questo periodo dell'anno, aveva un identico formato allora a quello che ha recuperato adesso, quindi più grande di quello a cui ci eravamo abituati negli ultimi anni, grandi foto, un cocktail editoriale molto particolare. 7, ricorda sempre Di Piazza, fu il primo allegato di un quotidiano e rappresentò una grande innovazione in un settore che da allora ha fatto passi da gigante, perché ricorda appunto Di Piazza, all'epoca non c'erano telefonini, non c'era internet, non c'era la TV digitale e l'Auditel non era ancora stato inventato. Questa è la presentazione del suo direttore, di Giuseppe Di Piazza, della nuova veste di 7, allegato al Corriere della Sera. Torniamo su Famiglia Cristiana perché si parla ancora di scuola, della difficoltà degli italiani di nuovo nelle materie scientifiche. Ci sarebbe un gap proprio in matematica. Quei buchi in matematica, segnala Simonetta Pagnotti su Famiglia Cristiana, prendendo il rapporto Invalsi. L'Invalsi è l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione, rapporto che si è concentrato sulla capacità di apprendimento nella scuola primaria, le elementari, come siamo abituati a chiamarle. Sono stati eseguiti dei test su 46.000 alunni di seconda elementare e di quinta elementare in oltre 1.000 scuole di tutta Italia. Quello che emerge è che i bambini di seconda hanno risposto mediamente in modo positivo al 65% dei quesiti di italiano, un po' meno per la matematica, 55%. Ma quando si arriva in quinta, però, le risposte corrette nella prova di italiano sono state in media il 62,3%. Contro il 57,1% in matematica, quindi il riequilibrio non è sufficiente a colmare il ritardo della matematica, anzi si arretra un pochino in italiano. Quello che però preoccupa, lo segnala Pagnotti, è che i risultati sono meno uniformi in quinta elementare nelle diverse regioni, specie in matematica dove, leggo da Famiglia Cristiana, i ragazzi del sud nei vari test perdono in media dai 4 ai 7 punti percentuali rispetto ai compagni del nord. E qui appunto si spiegherebbe poi perché le materie scientifiche abbiano più difficoltà a trovare fortuna, a trovare cultori in Italia. Ci sarebbe appunto una difficoltà già nei primissimi anni dell'apprendimento, quelli appunto delle elementari. E con questa segnalazione il tempo a nostra disposizione per oggi è scaduto. Io ringrazio Valeria Bernardi che ci ha assistito alla regia questa mattina. Vittoria Mussini e Emanuela Sicuro mi hanno aiutato a preparare questo programma. Ci sentiamo sabato prossimo.